Vous êtes le bienvenu, l'apprendista di suoni. 3 3 39 11 4 5 9 quanto faz? Quanto faz? Quanto faz? Sono appena tornato a Kabul ed eccomi a zonzo per le sue strade. Nel solito febbrile caos di folla, macchine, biciclette, risciò e carrozzine per invalidi. E per la prima volta avverto l'insolita sensazione di trovarmi in mezzo a gente quasi felice. Ettore Mo, 4 marzo 2003, Kabul, area di riferimento Afghanistan, Asia centrale. Ricordare, raccontare, ricondurre ogni cosa ai ricordi, nel tentativo di mescolare tra loro avvenimenti presenti con il passato, tenere insieme, unire qualcosa che sfugge all'unica realtà che veramente ci appartiene. Alla ricerca di un filo rosso che leghi il passato al presente, per raccontare i ricordi. Categoria dello spirito assolutamente personale. Non c'è nulla da obiettare, non c'è nulla di obiettivo in un ricordo. Non c'è nulla. L'unica parvenza di reale può starci di straforo soltanto. La sola realtà possibile è qualcosa che sfiora, che talvolta affiora. Ricordi hanno una fluidità tutta loro. Trame oniriche, perciò di per sé spezzate, mille volte interrotte, eppure perfettamente logiche, non riconducibili immediatamente alla realtà, all'immanenza, all'urgenza del reale. Per questo, in quanto qui vi viene detto, non va cercata alcuna verità. Si tratta soltanto di un punto di vista sbagliato, labile, sbaragliato, sbattuto su di un palco sotto la spinta dell'emozione. L'emozione che fa da scia ai ricordi, nutriente indispensabile. Esistono ossessioni. Ossessioni da portarsi, da protrarsi dentro. E il guaio è che si comincia da subito. Si comincia da bambini, quasi per gioco, è il mio caso. Ossessioni con le quali si impara a convivere. Ossessioni con cui ci si affratella, ci si affardella in forma rutinaria. Ossessioni di cui si cade prigionieri, contenti. Senza le quali è impossibile stare. Senza le quali è impossibile fare. E per quel che riguarda me, il mio caso, è tutta colpa di Pippo Di Noi, mio nonno. Pippo Di Noi, al secolo Giuseppe Trifone Di Noi, che odiava quel suo bizzarro secondo nome. Pippo Di Noi, che ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, arruolato che aveva 18 anni, classe 1913, combattente tra i Balcani, prigioniero degli inglesi, in fuga dagli inglesi, ferito ad un piede durante la fuga evasione, per settimane da qualche parte, immerso in un campo sperduto di gran turco jugoslavo, costretto a mangiare la punta delle pannocchie per dissetarsi, e poi ancora in fuga verso casa e scappare alla fucilazione, catturato dagli uomini di Tito in Slovenia, e poi il confine ancora in fuga verso casa, da Gorizia a Manduria, Taranto, in bicicletta. Figlio di un carrettiere, Pippo Di Noi. Costretto, raccontava, a lasciare la scuola, istituto salesiano, in terza elementare, il suo più grande rammarico. Servivano braccia, però, per lavorare, e le sue, a detta dei fratelli maggiori, erano già pronte. Aveva quasi 9 anni, Pippo Di Noi. E poi non c'era scelta. C'era stata la morte di suo padre, improvvisa ma non imprevista. Cosimo, carrettiere e commerciante di cereali, rimasto vedovo all'età di 52 anni. Non era più riuscito ad attraversare strade e sentieri che dalla Puglia lo avevano condotto in giro verso la Campania, la Calabria, per tutto il mezzogiorno, per anni e anni, per secoli, per generazioni e generazioni. Cosimo la sera non raccontava più. Non diceva più, per esempio, dell'emozione provata quella volta da ragazzo in cui aveva visto Roma. Teresa se n'era andata. E allora, per correre ai ripari, il più piccolo dei bambini, via subito in istituto dagli salesiani, che loro si sarebbero occupati di lui, della sua educazione, dell'istruzione, e magari, chi lo sa, un giorno Pippo Di Noi sarebbe diventato un prete. Un sacerdote in casa, un onore, Ma Cosimo davvero non aveva retto, e così 4 anni dopo la scomparsa di sua moglie, all'età di 56 anni, moriva anche lui. E si lasciava andare per sempre, vittima di uno strano male, che i suoi familiari, spiegando la situazione a Pippo Di Noi bambino, chiamavano semplicemente malinconia. Cosimo Di Noi, morto di malinconia, padre di Pippo Di Noi, mio nonno, che odiava le patate, perché in guerra non c'era altro da mangiare. E poi dovevo mangiarle io le patate, perché? A me bastava vivere con loro, con i nonni, senza patate, attraverso loro guardare i giardinetti sotto casa, ascoltare i telegiornali, i GR, assistere al mattino al rito della radio, con Pippo Di Noi che si aggirava per casa col suo asciugamani poggiato sul collo prima di radersi e lasciare dietro di sé una scia di profumo buono. E ascoltare, ascoltare, ascoltare nomi confusi, suoni strani, racconti e parole in slavo, lingua che Pippo Di Noi pretendeva imparassi. E ascoltare, ascoltare, ascoltare. Mi si aprivano mondi sconosciuti. Tutto il mondo sgorgava in mille colori attraverso un vecchio televisore in bianco e nero, esplodendo in parole e suoni per me nuovi, strani, inconsueti. E fantasticavo io. Fantasticavo senza comprenderne il significato. Ero un apprendista di suoni. Si taglia con un cristino, Portobello, stappa un crodino, Beirut, Palestina, Libano, Khomeini, Pasdaran, Iran, Mujahideen, Jimmy Carter, non ancora Nobel per la pace, Afghanistan, Bologna. Bologna, i suoni degli anni Ottanta. Mi viene spiegato, dopo varie insistenze, che molti di essi sono paesi, città, luoghi lontani, ma io mi ostino, sì, mi ostino a farli miei, non ci sto. La mia fantasia li ricolloca, invento uno scacchiere geografico tutto nuovo, personalissimo. Cambio di posto gli stati tra loro, quasi volessi inconsciamente separarli per spegnere l'incendio, pur senza capire ancora che quelle terre bruciano. Non ho capito, o forse non mi è stato detto, che esiste una parola semplice che accomuna tutti questi suoni, dai contorni aperti, indefiniti. Suoni avvolgenti, quasi mi diverto a pronunciarli. Suoni vecchi di 20 anni. Quando per caso uno di questi, attraverso il televisore, decide prepotentemente di tornarmi all'orecchio e subito alla mente. Mujahedin. Due finti giornalisti kamikaze, al soldo dello sciicco saudita Osama Bin Laden, si sono fatti saltare in aria con la loro telecamera imbottita di esplosivo, dopo essersi recati per una intervista nel quartier generale segreto del comandante Massoud, capo dei Mujahideen dell'Alleanza del Nord, formazione militare opposta ai Taliban. Il leone del Panjshir, in condizioni disperate, è stato condotto in Tagikistan, dove un'equipe di medici sta tentando di salvargli la vita. Commento alla notizia. Fonti dell'opposizione afghana parlano di un favore reso da Osama Bin Laden ai suoi protettori e ospiti. 9 settembre 2001. Oggi è domenica. Domani si muore. Domenica 9 settembre 2001 è il giorno del compleanno di Pippo Di Noi. Sarebbe il giorno del suo compleanno, perché lui non c'è più da 10 anni ormai, ma il suono, quel suono, Mujahedin, è familiare. Ora so chi è un Mujahed. E il paese da cui il suono arriva, da cui arriva la notizia, è sistemato, ben sistemato in uno scacchiere geografico definito, Afghanistan. E c'è un nome, il nome di un Mujahedin. Il nome però, credo di averlo già sentito, ma si parla così poco di Afghanistan da anni ormai che ci si può anche dimenticare dell'esistenza di Ahmad Shah Massoud, il leone del Panjshir, una definizione importante. Il TG lascia scorrere le immagini di repertorio. Mi fermo a guardare, osservo. Sembra un uomo mite il comandante, il capo dell'Alleanza del Nord, il comandante tagico, terrore degli shuravi russi, durante la guerra di liberazione antisovietica. La notizia però non interessa molto i media nostrani. E di Massoud intanto non se ne sa più nulla, fino a 5 giorni più tardi. È un'agenzia iraniana a dare la notizia. Il comandante è morto. Il 14 settembre 2001... è un venerdì assolato. Il televisore è sempre acceso, sempre più acceso, sempre più acceso. Imperversano proclami. Non si tratta più di investimenti sicuri in Italia, non solo all'estero, di rientro di capitali come fino a qualche giorno prima, no. Ora ci sono i proclami sempre propagandistici dei vari capi e rappresentanti e portavoce degli stati e delle regioni, delle province, dei condomini in una ressa febbricitante, tutti, nessuno escluso, più realisti del re. Attacco imminente, si sente dire. Guerra al terrorismo, ci si fermerà un giorno o l'altro in 800 milioni di persone per 3 minuti a conferma della solidarietà nei confronti del fratello maggiore ferito al cuore. 800 milioni di persone ferme, in silenzio, per 3 lunghi minuti. E gli altri? Sì? Gli altri 5 miliardi e mezzo di terrestri? Che faranno loro? Seguiranno o no l'esempio europeo? Dico cose atroci? Non c'è tempo. Arafat, Peres, Sharon, Rudolf Giuliani, Edward Luttwak, Blair, Bush, Musharraf. Suoni vecchi e nuovi per uno scenario vecchio e nuovo soltanto nei suoni, nei nomi. E la storia che gira, gira, somiglia sempre a se stessa, come spiegava 20 anni prima Pippo Di Noi. Fidati degli uomini, diceva, ma guardati da loro, che chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. Fidati degli uomini, ma guardati da loro. Allargherei volentieri le braccia, farei spallucce, ma c'è troppo fastuono, non riesco a distrarmi, non posso, non voglio. Sabato 15 settembre 2001, l'occhiello recita: dato per morto il comandante della resistenza ai sovietici e ai talebani, dilaniato da una bomba. Comandante della resistenza? Come Sandro Pertini. Suono icona della mia infanzia. Il presidente degli italiani, presentatomi da Pippo Di Noi attraverso un aneddoto sulle patate. Pare che una volta, in visita già da presidente della Repubblica in una caserma militare, avesse preteso di pranzare con i soldati semplici Pertini, accontentandosi quel giorno del loro stesso rancio, comprendente patate lesse. Se se le mangia il presidente, te le devi mangiare pure tu. Magari per questo Pippo Di Noi ammirava tanto Sandro Pertini. Seppur su fronti diversi e opposti, durante la guerra avevano mangiato la stessa merda, le stesse scorze di patate, avevano sentito in bocca al mattino lo stesso gusto sgradevole. Se se le mangia il presidente, te le devi mangiare pure tu. Se se le mangia il... Addio Massoud, leone del Panjshir. Il suono del titolo ha un che di fraterno. Il leone del Panjshir non ce l'ha fatta, scrive Ettore Mo. Il suo corpo straziato ha ceduto dopo giorni di pena e di agonia e si è irrigidito. Riesce difficile immaginarlo nell'immobilità assoluta della morte. Era già un mito, una leggenda, ma un mito è una leggenda in movimento. Leggenda viva per un popolo in cerca di pace, leggenda nata con la guerra, finita con un'altra guerra alla vigilia dell'ennesima nuova guerra. Perché? Perché? Io un'idea me la sono fatta. È confusa, incerta, ma è già qualcosa. Fidati degli uomini, ma guardati da loro. Blair, Bush, Musharraf, Blair, Bush, Musharraf. Per chiarire l'idea bisogna viaggiare nel tempo, cercare tra gli avvenimenti avanti e indietro e cercare raccogliendo quanto si può. Fidandosi degli uomini, ma guardandosi da loro. Mettendo insieme i frammenti. Tu che avevi per patria l'altissimo cielo e ti sentivi puro da ogni cosa del mondo, hai disegnato ora l'immagine tua sulla terra, hai lasciato quello che era la tua prima origine. Tu non sei acqua, tu non sei terra, altro tu sei. Sei in viaggio, fuori dal mondo d'acqua e di fango. Il corpo è torrente e l'anima è l'acqua di vita che scorre. Ma dove tu sei, sei ignaro di entrambe le cose. Tu sei una copia del libro di Dio, sei lo specchio della suprema bellezza del Re. Non è fuori di te tutto ciò che è nel mondo. Qualunque cosa tu voglia, cercala in te. Tu sei quella. Han detto, da ogni parte è la luce di Dio, ma gridano gli uomini tutti, dov'è quella luce? L'ignaro guarda da ogni parte, a destra, a sinistra, ma dice una voce, guarda soltanto. Senza destra e sinistra, Rumi, quartine, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda lo pesce, guarda lo pesce, guarda lo pesce, guarda, guarda, guarda nonno, guarda, guarda lo pesce, vieni qua, vieni, vieni, vieni, guarda lo pesce, guarda lo pesce, guarda, guarda lo pesce, guarda, guarda lo pesce, guarda, guarda lo pesce, guarda, lo pesce, guarda, lo pesce, guarda, lo pesce, guarda, pesce, guarda, lo pesce, guarda, lo pesce, guarda, pesce, guarda, pesce, guarda, pesce, guarda, pesce, pesce, guarda, pesce, guarda, pesce, guarda, pesce, guarda, Peshawar, Peshawar, Peshawar, Pakistan, primavera 1984, città di confine, di contrabbando, di tradimenti, faide e bazar, e scrigno di favole macabre, come quella dell'italiano Paolo Avitabile, ex ufficiale murattiano, quindi servizievole luogotenente dello Scià di Persia, nonché comandante delle armate Sikh e finalmente governatore della città ingovernabile durante la prima metà del XIX secolo. Abu Taleb. Questa è la traduzione del cognome napoletano Avitabile. Come i cantastorie tramandano, da 150 anni si distinse per la sua ferocia. Una volta governatore fece impiccare tutti i ladri rinchiusi nelle carceri. Quindi ai saccheggiatori fu destinata la stessa sorte dei ladri. E poi fece impiccare coloro i quali mettevano in giro voci false. E poi ancora fece allestire forche e patiboli per chiunque passasse il proprio tempo in giro oziando per le strade della città. E impiccando, alla fine Peshawar era in pace. Una pace da cimitero, ma pur sempre una pace. Morì. Una volta tornato a Napoli, a Butaleb, abitabile, nel 1850, avvelenato da una sua nipote, costretta dalla famiglia a sposarlo quando aveva soltanto 12 anni. Pare che una notte la giovane e il suo nuovo amante abbiano deciso di farla finita per sempre con lo zio marito padrone e di godersi l'eredità accumulata dallo stesso in anni ed anni di predonerie. Il fascino del contrappasso. Peshawar, Pakistan. Primavera 1984, Peshawar, porta dell'India, sede dei 7 partiti afghani della Jihad antisovietica, città convulsa, teatro di efferate crudeltà, città violenta e mendace, nella quale durante la primavera dell'84 prende piede una strana voce. E si sa, da queste parti basta poco perché le semplici voci subito diventino notizie e la notizia si fa sempre più insistente. Massoud ha tradito. È passato coi russi. Altri sostengono sia semplicemente morto, caduto sotto i colpi della settima offensiva sovietica nel Panjshir, l'operazione Goodbye Massoud. Tutto è molto strano. Che succede a Peshawar nell'84? Chi mette in giro ste voci? Chi fa in modo che subito diventino notizie? Forse soltanto un'abitudine, una consuetudine del luogo, chi lo sa? Il fatto è che Massoud non frequenta Peshawar, non prende dollari americani, non ha missili Stinger Massoud, non ama quella città, ma la voce è diventata notizia e la notizia è forte, uno scoop. E Massoud non c'è altro modo di raggiungerlo se non mettendosi sulle sue tracce. Tracce. Quelle che cerca Ettore Mo. Affitta una guida e un cavallo. Ribattezza quest'ultimo Taraki come il presidente afghano schierato con Mosca e si mette in marcia. Destinazione Panjshir, sulle tracce del comandante. E ciò che accade qua somiglia tanto a uno dei racconti di Pippo Di Noi, sperduto in un campo di gran turco jugoslavo. Il racconto, per esempio, di quando gli apparve il miracolo di una ragazza slava che portava avvolto in un fazzoletto, apposta per lui, un pasto caldo dopo giorni e giorni di pannocchie. Pasta e ceci e chissà cos'altro nella marcia verso casa. Il chissà cos'altro non era storia da poter raccontare ai bambini, ma certe cose si capiscono solo più tardi. Il viaggio è duro, ma ne vale la pena. Questo avrà pensato Ettore Mo, durante la ricerca del comandante, lungo i sentieri della primavera afghana, per più di un mese, balza dopo balza, di rifugio in rifugio, cercando notizie, districandosi tra gli avvistamenti. Sì, perché Massoud non ha tradito, anzi, è costretto a spostamenti continui, potrebbero attentare alla sua vita. Fidati degli uomini, ma guardati da loro, Blair, Bush, Musharraf, e infatti. Infatti, finalmente, su una collinetta, eccolo là, ecco il leone del Panjshir, eccolo. E uno qua, credo che ognuno abbia il diritto di immaginarselo come meglio crede. Io me lo sono immaginato tante volte fiero, altezzoso, che scruta la valle, pensa al destino del proprio popolo, della propria gente. No, niente affatto, tutt'altro. Massoud stava lavorando, come sempre, come ogni volta gli si andasse incontro. Aveva una vecchia mappa militare sulle ginocchia, sulla quale tracciava itinerari di guerra servendosi di mandorle e uva sultanina. Mandorle e uva sultanina. Il comandante finalmente si accorge del cronista italiano, abbozza un sorriso e «Vous êtes le bienvenu», gli dice. «Vous êtes le bienvenu». Da uno degli angoli più disperati della terra salta fuori un suono incantevole. Benvenuto, gli dice. Vous êtes le bienvenu. Intanto le luci del giorno abbandonavano il Panjshir. La serata proseguì attorno ad un fuoco. Le carcasse dei blindati e i pezzi di artiglieria che i sovietici avevano lasciato per sempre lungo il fiume scomparvero in fondo alla valle inghiottite dal buio. Massoud stava bene, rideva forte. Ma che ci fa lei qua? Ah, è per via dell'offensiva sovietica. Sa, l'avevano chiamata Goodbye Massoud, ma hanno dovuto ribattezzarla. Adesso si chiama Au revoir Massoud. Stia tranquillo, amico mio. Li cacceremo via tutti e per sempre, questi shuravi. Rideva. Non poteva immaginare. Non poteva immaginare che di lì a poco la sua eroica resistenza, le sue mandorle, la sua uva sultanina avrebbero riempito le pagine di libri di storia e manuali militari. Rideva forte, Massoud, non poteva immaginare, rideva. E quando anni più tardi, nel 1998, Christophe de Pontfilly, suo amico e cineasta francese, gli rimprovera bonariamente il fatto di non aver imparato l'inglese, che questo gli avrebbe permesso di andare in giro per il mondo, di parlare al congresso americano, che la politica ormai si vende come i detersivi, che conoscere l'inglese gli avrebbe permesso di tenere conferenze, di parlare del suo paese, che... Massoud glissa. Massoud delude la domanda. Sorride appena, non risponde. Sa di aver perso un'occasione. Che il suo sogno, quello personale, si allontana ogni giorno di più. Che i nuovi nemici, ma non solo loro, impediscono che si realizzi. Che al potere nel 92 Massoud non ha saputo governare. Risucchiato dalla corruzione e dall'inconsistenza di un governo di mezze figure, una sorta di cleptocrazia al potere di cui egli stesso ha fatto parte. E forse, chi lo sa, se Massoud avesse imparato l'inglese, se non fosse stato ostinato nel rimanere piantato in Afghanistan, forse. Ma nel 98 è tardi, non ci sono più funzionari nei distretti del Panjshir, solo qualche amico fidato scampato alla Jihad, ed è Massoud stesso a dover sbrigare gran parte del lavoro in prima persona. Servono scarpe integre per il figlio di un combattente saltato su una mina qualche mese fa. Bisogna organizzare i gruppi armati, riprendersi l'aeroporto di Talo Khan. Non c'è tempo per l'inglese, non c'è tempo per i sogni. Da più di un anno il caos è totale. Da quando gli ex bambini di Dio sono diventati studenti dello stesso e quindi guerriglieri, da quando questi boy scout hanno impugnato il mitra e hanno deciso di portare ordine e legge di Dio a Kabul, Massoud non può fare altro che resistere. Ancora una volta, resistere contro un nemico diverso. Resistere senza avere ancora imparato l'inglese. Blair, Bush. Musharraf, l'inglese, le lingue straniere. Le lingue straniere sono importanti. Pippo di noi teneva a lingue straniere. Pretendeva impararsi lo slavo, lingua misteriosa che gli aveva salvato la vita una volta in Slovenia. Catturato dagli uomini di Tito, aveva urlato a squarciagola con le mani alzate: nemanista, nemanista fascista. Non sono fascista. Non era vero. Si era disfatto della divisa, Pippo di noi. Biglietto d'andata per la stazione di Gorizia, da cui previo furto di una bicicletta aveva inizio la sua ridiscesa attraverso l'Italia devastata, craterizzata. Verso il Salento del vino di Manduria, l'unico che bevesse e che lasciava macchie indelebili sulle tovaglie bianche del corredo di Angela, sua moglie. Lei aveva occhi verdi come non ne ho più visti ed una inusitata dolcezza in volto. Ne aveva viste e vissute tante, Angela. E oltre a quel nome si portava in giro una infinita dignità, sia in faccia che nelle braccia forti che scopriva d'estate o nelle mani di donna di casa. Ogni sera doveva sorbirsi Angela le lezioni di vita di Pippo di noi, lezioni a lei rivolte ma al nipotino destinate, lezioni da cattedratico semi-alfabetizzato. Cose del tipo non fare il passo più lungo della gamba, la mania per l'ordine non solo in casa e tante altre piccole cose raccontate, dimenticate. Lezioni di storia, la mia passione, religione, il tormento. Con il cattolico sudore della fronte, Pippo di noi era riuscito a diventare un piccolo borghese, comunque mai piccolo piccolo. Aveva pur sempre dalla sua le storie, i racconti di guerra, come quella per esempio della fuga dal campo di prigionia, attraverso un buco nella recinzione, fuggito perché più di ogni altra cosa non sopportava di essere chiamato italiano di merda dai soldati di sua maestà britannica. Giù di Branda, italiano di merda, Enriga, italiano di merda, italiano di merda, italiano di merda. Pippo di noi, che mentre gli altri suoi compagni di sventura cercavano e elemosinavano un tozzo di pane, vendette la propria camicia per poter comprare un pezzo di sapone, per potersi lavare, per sentirsi pulito, per quanto... E poi ancora l'amor patrio... E trasferitosi nel paese di sua moglie c'era da combattere con la madornale ignoranza toponomastica degli acquisiti concittadini, particolare che suonava come una bestemmia ai suoi orecchi di vigile urbano. Vigile urbano ai tempi in cui c'erano ancora i turni di notte dalle 22 alle 6 del mattino. Il turno cominciava. Pippo di noi prendeva servizio quasi sempre allo stesso incrocio, nei pressi della piazza principale. Dopo circa mezz'ora, mano nella mano, Angela e la sua bambina lo raggiungevano. In un sacchetto di carta portavano un termos con del caffè, un panino al prosciutto e una mela gialla. In fondo alla notte, tornato a casa intirizzito dal freddo, Pippo di Noi avrebbe trovato 5 borse d'acqua calda a scaldargli il letto. Erano i tempi in cui in Italia regnava la Democrazia Cristiana, che reggendo le sorti del comune di Angela e gestendo di conseguenza ogni pubblico servizio, lasciava democraticamente e cristianamente una sorta di diritto di prelazione sui turni di notte a chiunque non avesse in tasca la tessera scudo crociata, quella con su scritto Libertas. Storie, racconti di Pippo di Noi, stroncato da una brutta bronchite, una sorta di vitalizio assegnatogli coi turni di notte. E poi la fissazione per le lingue straniere. Le lingue sono importanti, diceva. E l'inglese più dello slavo, ragioni storico-politiche, dice, ma ho il sospetto che negli ultimi tempi meglio sarebbe stato inventarsi perlomeno un po' di slavo, ma questa è altra storia e divagare va bene, ma occorre però non perdere di vista il sentiero, altrimenti ci si smarrisce. Blair, Bush, Musharraf, fidati degli uomini, ma guardati da loro. L'inglese. Non c'era stato verso. Massoud non aveva proprio voluto impararlo, anche perché lui conosceva l'altra lingua di conquista e forse gli bastava. E infatti, così, finalmente, dopo anni di insistenze, spronato, Massoud si decide oltre le sue colonne d'Ercole e dall'Afghanistan, porta d'Oriente, ombra dell'antico splendore, il comandante raggiunge l'Europa. Giunge in Europa al cospetto dell'Unione, degli intellettuali e dei sociologi europei, Blair, Bush, Musharraf. Suoni così da bambino mi avrebbero fatto impazzire di gioia. Ad aprile 2001, a Strasburgo c'è il sole. È in una sala di un palazzo pulito, delle bottiglie con dell'acqua minerale e una bandiera afghana campeggia sulla parete dietro il tavolo. L'Europa. Crocevia di un viaggio di speranze per un popolo in fuga. Massoud adesso spera. Spera nei fratelli europei, si è deciso, non più appelli disperati. La jihad è lontana. È tempo di presenza fisica, della politica, delle ragioni, delle motivazioni, delle bottiglie d'acqua minerale, dei progetti da presentare all'Unione Europea e alle Nazioni Unite. È proprio a Strasburgo, città di confine, simbolo della pacificazione per il vecchio, stanco continente, Europa, Blair, Bush, Musharraf. Passaggio delicato perché adesso sconfiniamo, ci mettiamo in un sentiero minaccioso e limaccioso. Dal cuore dell'Europa sono partiti i due finti giornalisti kamikaze del 9 settembre 2001. Tra Parigi, Bruxelles e Milano sono stati effettuati gli arresti per quell'assassinio. L'Europa, da tappa di speranza a tomba delle speranze non solo per Ahmad Shah Massoud. D'accordo. Sconfiniamo. Pakistan, fervido sostenitore dei Taliban. Pakistan, fervido sostenitore degli Stati Uniti d'America nella lotta al terrorismo e talebani. Delle due l'una o entrambe? C'è qualcosa che non torna qui. Qualcuno ha giocato sporco, ha giocato col fuoco, qualcuno ha fatto il passo più lungo della gamba, o no? Agosto 2001. Siamo invasi, oggi come ieri, oggi c'è il Pakistan che si serve della copertura dell'Islam. Quanto alle Nazioni Unite continueranno ad essere perdenti nella questione afghana se private dell'appoggio delle grandi potenze occidentali. Soltanto con un forte sostegno di queste ultime all'ONU il Pakistan smetterà di finanziare i talebani. In queste condizioni non potranno resistere per più di 6 mesi. A seconda delle circostanze noi avremo successo o meno, ma questa è un'altra faccenda. A poche settimane da queste parole il comandante sarebbe saltato per aria, esploso in frammenti che nessuno avrebbe mai ricomposto. Frammenti, ciò che cerchiamo. D'accordo. Probabilmente causa manifesta inferiorità, il Pakistan di Musharraf sarà stato costretto, a conti fatti, ad appoggiare la guerra dell'amministrazione Bush contro Osama, Bin Laden, talebani, terrorismo, stati canaglia. D'accordo, può darsi, ma allora perché? Perché quando è stato proprio Massoud nel 2001 ad aprile a Strasburgo a parlare della necessità di lottare contro l'integralismo nessuno gli ha dato retta? Perché in quell'occasione non ci sono state levate di scudi? Perché a furia di cercare gli appoggi, i referenti e politici e militari di questo esercito del mistero all'indomani della presa di Kabul spuntano sempre soltanto fuori i servizi pakistani o sauditi e dietro a questi quelli americani? Perché mentre ancora si combatteva in Afghanistan alla fine del 1996, Clinton presidente, erano già piombati su Kabul come avvoltoi i rappresentanti di Unocal e Delta, multinazionali del petrolio, pronti a ricoprire di dollari, moneta sonante, i nuovi padroni, le loro barbe, i loro turbanti, milioni di dollari destinati alla costruzione di gasdotti e oleodotti che collegassero Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan, chi? Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan con il mare arabico. Perché? Esistono due modi per collegare i giacimenti preziosi degli stati su elencati con il mare arabico. Uno, fare in modo che dei giganteschi tubi solchino Afghanistan e Iran, ma questo è il modo sbagliato. L'Iran o l'Iran è uno stato canaglia per le canaglie di stato. Il fatto è che, per quanto io riesca a ricordare, anche l'Afghanistan, almeno fino al 2002, figurava nella lista degli stati canaglia, qui si parla di 96, 97 o no. No, ma dice c'è stato il condono, tu paghi la multa e sei a posto col governo. Ah, allora se c'è stato il condono, Blair, Bush, Musharraf, due. L'altro modo per arrivare al mare arabico prevede sempre e comunque la perforazione attraverso l'Afghanistan. Ma oltre all'Afghanistan condonato, qual è l'altra nazione che quei tubi giganti dovranno solcare? Il Pakistan? Il Pakistan? Ma allora è vero? Avevano tutti qualcosa da guadagnarci. Talebani, pakistani, americani, sauditi, britannici, che quelli c'hanno sempre da guadagnarci qualcosa da quelle parti, uzbeki, turmeni, tagiki, perfino i kirghizi c'avevano da guadagnarci qualcosa. Che cos'è che è andato storto? Chi è che non ha rispettato i patti? Chi si è fidato troppo senza guardarsi le spalle? Accordi saltati, patti non rispettati, promesse non mantenute, forse? Che i repubblicani americani fossero così avidi, chi l'avrebbe mai detto? Sarà un caso che con la presidenza Bush, ex alcolista, l'unico membro americano di Al-Qaeda si chiami Johnny Walker? Sarà un caso che Bush, incalzato in campagna elettorale nel 2000 alla domanda cosa pensa dei talebani, abbia risposto di non intendersi di rock band? Sarà casuale tutto questo? Non lo so. Vatti a fidare degli uomini. E Massoud? Che c'entra Massoud in tutto questo? Nel firmamento è apparsa all'alba una luna, è scesa dal cielo e ha rivolto a me lo sguardo. Come un falco mi rapì quella luna e corse di nuovo nel cielo. E quando me stesso guardai, più me stesso non vidi, che in quella luna il mio corpo, per grazia sottile, si era fatto anima pura. E quando viaggiai entro l'anima, non vidi che luna, e i nove cerchi del cielo immersi in quella, e la barca dell'essere mio s'era tutta in quel mare nascosta. Ma senza l'aiuto del Signore, del sole divino, non si può vedere la luna, non si può essere mare. La luna, Rumi. C'è una collina da qualche parte nel Panjshir, la collina del martire. Lì su una tomba, su un cartello scritto a mano, si legge: qui è sepolto un uomo che era come un angelo. Seguilo lentamente. Il suo nome è Massoud. Seguilo lentamente. Lentamente. Massoud. Posso solo immaginare. Non rimanere indifferente. L'unica forza che mi rimane, Massoud. Credere che tutto questo non dovesse andargli a genio. Raccontare di come il Panjshir di Massoud, la mini repubblica islamica del nord, avesse scuole femminili. Raccontare di come alle donne fosse permesso lavorare a differenza di quanto avveniva nel resto del paese, per quanto proprio il suo governo, il governo Massoud, avesse loro imposto il velo e condizioni non proprio confortanti a partire dal 1992. Raccontare, immaginare, non rimanere indifferenti, dire del sogno del comandante, andarsene alla fine della guerra in un posto in cui non ci fossero dannate montagne e riposarsi leggendo i Masnavi, gli eroici distici di Rumi, il più grande poeta e mistico della lingua persiana. Raccontare soltanto, mettere insieme i frammenti. Il leone del Panjshir non ce l'ha fatta. Il suo corpo straziato ha ceduto dopo giorni di pena e di agonia e si è irrigidito. Riesce difficile immaginarlo nell'immobilità assoluta della morte. Frammenti di un corpo che nessuno ha saputo ricomporre, frammenti, nulla di più. Lo sguardo del comandante Massoud, che non aveva mai bisogno di alzare la voce, seguilo lentamente, che parlava sommessamente, adagio, e soltanto dopo aver ascoltato gli altri, la gente della vallata, gli amici d'infanzia. gli occhi preoccupati ma sereni, placidi, rassicuranti, quasi privi di aggressività, vellutati. L'ironia che gli faceva dire dei sovietici: «So che amano molto queste montagne e mi dispiace che almeno per ora debbano rinunciare alla villeggiatura». Il basco, il tocal, sempre a tre quarti sulla tempia sinistra, la cura per il corpo, guerrigliero sempre in ordine, con le mani curate anche se stringevano un Kalashnikov, e le partite di pallone sui prati con gli altri mujahideen, le telefonate interminabili, la fede in Dio ferma, incrollabile. Racconti. Storie. E ancora si può raccontare la storia di due amici, Ahmad Shah Massoud, comandante, e Massoud Khalili, ambasciatore afghano in India, figlio di uno dei maggiori poeti afghani del Novecento e poeta egli stesso. È il 6 settembre 2001. Khalili è a Nuova Delhi. Riceve una telefonata. Dall'altro capo c'è Ahmad Shah. «Dai, vieni a trovarmi, che ci fai laggiù?» dice all'amico. Khalili si decide a partire. L'8 settembre è già in Afghanistan. Incontra Ahmad Shah nel quartier generale di Khoja Bahuddin, Panjshir, Afghanistan del Nord. I due trascorrono insieme tutto il pomeriggio. Parlano di politica, delle future operazioni militari dell'Alleanza del Nord. Ahmad Shah è molto preoccupato. «Manca tutto», dice, «cibo, vestiti, medicinali, andiamo incontro all'inverno. Ci sono troppi soldati in giro e c'è il rischio di un'offensiva da parte del nemico». Continuano a parlare i due, chiusi in una stanza. Sul Panjshir infuria da giorni una tempesta di sabbia, che ha praticamente rispedito indietro decine di giornalisti accorsi da ogni parte del mondo per intervistare Ahmad Shah. Si fa sera e si continua a discutere. È notte finalmente, le 3 del mattino, arriva l'ora mistica. Ahmad Shah comincia a pregare. Lo fa anche per 2 ore di seguito, di notte, senza fermarsi. «Un musulmano vero», dice di lui Khalili. Il discorso riprende. Si parla di religione, di filosofia, di poesia. Basta poco per far felice Ahmad Shah. Un bel verso. Lui non chiede altro. E nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2001 i due amici parlano a lungo di Victor Hugo e Dante Alighieri. Khalili dice di Ahmad Shah che la guerra in fondo gli è stata imposta, ma che nel suo cuore c'è sempre stata la pace. La notte intanto continua ad avvolgere la valle. Sono le 4 passate e i due fanno un gioco. Un gioco fatto tante altre volte, l'ultimo atto della nottata. Khalili apre un libro a caso, inciampa in un verso del poeta Hafez. Si dice che aperte a caso le sue poesie forniscano una risposta alle domande dei devoti. O voi, che sedete soltanto per questa notte, passeranno i giorni, i mesi, gli anni, e non sarete più in grado di rivedervi. Immaginare. Raccontare. Si può azzardare l'ipotesi che cadere vittima di un attentato dinamitardo posto in atto da 2 probabili membri di Al-Qaeda il 9 settembre 2001 non sia casuale. E pensare che quel giorno d'aprile a Strasburgo, dopo aver documentato le ingerenze pakistane in Afghanistan, prima di andar via, Ahmad Shah Massoud tirò fuori una cartina topografica di Kandahar, città simbolo dei talebani, e indicò un punto sulla cartina con un dito. In questa strada vive Osama Bin Laden, in una casa prestatagli dal mullah Mohammed Omar. Aprile 2001, Strasburgo, area di riferimento Europa centrale. Mettere insieme frammenti pare facile. C'è una poesia sul nostro giornale. Qualcuno l'ha letta? Si chiama Frammenti di vetro. Scende la notte. I nostri sguardi hanno gli occhi di coloro che attendono. Nella notte brillano le stelle, qua e là. Luccicano di lacrime, dolore e disperazione. Il mio giaciglio è come in fiamme. Ma una goccia diventa una gemma se la verso volutamente. Come un giardino primaverile sotto la pioggia. È un giovane mujahideen un po' stupito. Massoud, sorridendo, spiega con voce piana, tranquilla come al solito. Come vedi, nulla di importante. Una semplice goccia. Ma quando una goccia di pioggia cade in una conchiglia in mare, diventa una perla, dicono. Quindi le mie sono lacrime di coraggio. E il mio coraggio è un gioiello. La pioggia di dolore non mi affligge più, tutti i problemi, le sofferenze non possono più scalfirmi. Come un giardino primaverile. Come un giardino primaverile sotto la pioggia. 9 settembre 2001, Khoja Bahuddin, Panjshir, Afghanistan del Nord, ore 11 del mattino. Ahmad Shah bussa alla porta di Khalili. La tempesta di sabbia è passata. Le troupe giornalistiche occidentali sono andate via da giorni, ma due ragazzi arabi sono ancora là con la loro attrezzatura ad aspettare. Ahmad Shah decide di chiudere questa storia, concederà l'intervista. Khalili esita. Non sa perché, non vuole andare, ma Ahmad Shah non sente ragioni. Prende il portafogli di Khalili poggiato sul comodino, glielo infila nel taschino del gilet sul petto e trascina l'amico con sé, nella stanza allestita per l'intervista. I due amici siedono su un divano, di fronte a loro una telecamera e due ragazzi arabi. L'intervista comincia. E dopo le prime domande, qualche cortesia, uno dei ragazzi arabi chiede: com'è la situazione politica in Afghanistan? A quel punto, un boato interrompe l'intervista. Com'è la situazione politica in Afghanistan? La telecamera esplode. Com'è la situazione politica in Afghanistan? Un cattivo odore si impossessa dei corpi inermi, è come se la bomba li penetrasse tutti. Com'è la situazione politica in Afghanistan? Poi più nulla. È come se il boato, la bomba, avesse distrutto, bruciato ogni cosa, anche le parole. Com'è la situazione politica in Afghanistan? Com'è la situazione politica in Afghanistan? Gli uomini cantano e pregano. Inshallah, dicono, inshallah. Calvario di canti, preghiere, digiuno. Un boato, poi più nulla. Com'è la situazione politica in Afghanistan? Com'è la situazione politica in Afghanistan? Com'è la situazione politica in Afghanistan? Afghanistan. Sentiero limaccioso. Afghanistan. Ginepraio. Afghanistan. L'ultimo suono giunto all'orecchio del leone del Panjshir. Ahmad Shah muore. Così i due ragazzi arabi. Khalili invece è salvo, per miracolo. Rimarrà zoppo e perderà un occhio. Ma quel portafogli in pelle, infilato nel taschino del gilet, impedendo alle schegge di arrivare al cuore, gli avrà salvato la vita. Frammenti di una storia. La storia di un uomo che era come un angelo. Seguilo lentamente. Massoud. Povero, ingenuo Massoud. Fidarsi dell'Europa. Come ci si può fidare? Come ci si può fidare di qualcuno che non sa nemmeno chi è senza guardarsi le spalle? De Bonfigli, cineasta, dice: finisco questo film come una bottiglia gettata in mare. E la nostra storia finisce con un'immagine rubata a quel film, Massoud l'Afgano, col comandante che dorme, avvolto in una coperta, poggiato su una grossa pietra in montagna. A poche ore da un attacco alle postazioni nemiche, messo lì come una cosa dimenticata, solo come sempre. E questa immagine ne richiama un'altra. Un'altra breve immagine che assomiglia tanto ad un'eredità preziosa. Ho tante piccole eredità di Pippo Di Noi. Le mie mani, proprio come le sue, identiche, eredità indelebile, inalienabile. E poi ci sono le parole. Le tante parole ascoltate, raccontate. Pippo Di Noi, che dopo il campo di Gran Turco jugoslavo era riuscito a trovarsi un nuovo rifugio in una cavità naturale posta su di un'altura, una grotta, insomma, e di là, diceva, si riusciva di sera a vedere Lubiana illuminata, e raccontava con gli occhi lucidi di una notte di pioggia torrenziale. Quella notte, diceva, di fronte alle luci della città lavata dalla pioggia, col capo coperto finalmente e lo stomaco pieno, di fronte a quello spettacolo in fuga dalla guerra, nonostante tutto, lui si sentiva un uomo felice. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto, quel giorno non avevano fiori Peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.